de comer. Vuoi portarmi a cuore la gioia del tuo primo amore? Io tanto cercata sai, ed al fine sei qui. Col sorriso di bimba tu mi ridai gioventù. Non mi credi tu, bambola, non mi dire di no. Il cammin della vita stretti assieme noi faremo, e felici saremo così, senza pena nel cuore. La mia piccola bambola tu per sempre sarà. Vivevo lieto senza amore, perché temevo di soffrire. Quando ti conobbi nel parco tutto in fior, e con dolcezza mormorai pena nel cuore, la mia piccola bambola, tu